Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito e Morena Rossi. A volte non serve parlare per comunicare. Il linguaggio del corpo costruito sulla grammatica delle emozioni che certe forme sanno suscitare ha lasciato nella storia del mondo molti segni indelebili. È vero, il pensiero si traduce in parole. Certe frasi sono entrate nella nostra memoria a scandire una certa situazione, ma il corpo, con la sua concretezza e tangibilità, si è sempre imposto con tutta la sua invadenza, imprimendo movimento agli eventi. A questo si aggiunga che se il corpo in questione è quello di una donna, i messaggi sono più incisivi per natura e cultura. E se il corpo di donna ha la pelle nera, soprattutto in un certo periodo storico, ne esce un vero e proprio vocabolario di sensi. Oggi, a Destini Incrociati, siamo agli inizi del Novecento e siamo tra Vienna e St. Louis, nel Missouri, per trasferirci infine a Parigi, dove tutto ha inizio, non solo la storia dei nostri due protagonisti, ma anche la storia di un'epoca. Cominciamo dalla capitale dell'impero austro-ungarico, dove si assiste alla nascita della modernità, al passaggio dal simbolismo all'espressionismo, al rinnovamento dell'arte nelle sue varie espressioni. Vienna è l'unica città che in quel periodo può rivaleggiare con Parigi per fermento e vitalità. Figura dominante nell'arte è Gustav Klimt, con i suoi ritratti, specchio di una psicologia e sessualità esasperata. Accanto a lui Egon Schiele, con le sue donne dall'erotismo ossessivo, caricature spettrali, dalla femminilità marcata, resa a volte quasi grottesca, e che trae spunto dalla primordialità della natura, come scriverà lui stesso nei suoi diari. Osservo soprattutto i movimenti corporei dei monti, delle acque, degli alberi, dei fiori. Tutto mi richiama alla mente i movimenti analoghi del corpo umano, i moti di gioia e di sofferenza delle piante. È il periodo della secessione viennese, dell'Art Nouveau, del Liberty, dove architettura, pittura, arti figurative in genere prendono ispirazione dalla natura. Semplici figure sembrano prendere vita ed evolversi naturalmente in forme simili a piante o fiori. È in questo clima che una domenica mattina di settembre del 1903, in una casa sulla Ringstrasse, nasce Paul Seltenhammer. Paul Seltenhammer. Non solo il fermento culturale, ma anche la situazione politica, dove Francesco Giuseppe, sposo della famosa Sissi, governerà per ben 68 anni, è per lui fonte di ispirazione negli anni a venire. Ma andiamo per ordine. La musica che si ascolta in casa al Seltenhammer è soprattutto viennese. Immancabili per il piccolo Paul due passi di valzer sulle note di Strauss nel salotto in braccio alla mamma quando c'è qualcosa da festeggiare. Che meraviglia guardare i genitori danzare. E Paul comincia a fantasticare sul suo futuro. Anche la sua adolescenza è fatta di gonne che all'unisono formano ruote simili a corolle di fiori, di schiene arcuate tenute elegantemente dalla mano del cavaliere, di corpetti aderenti ad impreziosire i décolleté. Coreografia di un sogno che qualche anno dopo sarebbe diventata la sua realtà. Eppure, nonostante l'apparente perfezione, qualcosa stride. Tutto cambia, si rinnova. Il corpo della donna, come mostrano i pittori del tempo, è visione nuova sul mondo, sulla natura. Adesso ci vuole un altro ritmo, però, un altro linguaggio. Per strada cerca di cogliere i messaggi che i corpi delle coetanee gli rimandano, ma sono corpi acerbi, in una città che forse è altrettanto acerba da questo punto di vista. Qualcuno gli ha parlato di Parigi e del Moulin Rouge. Il can-can è un ballo simbolo della capitale francese, colonna sonora di un periodo fatto di spensieratezza, allegria e lussuria, e il Moulin Rouge ne è la Mecca. Quelle gonne che sfiorano delicatamente il pavimento nel giro di valzer, nell'immaginario di Seltenhammer qui, si alzano vorticose e mostrano le gambe impertinenti di giovani ragazze. Insieme ai caffè concerto, come il Moulin Rouge, dove è possibile assistere agli spettacoli e nello stesso tempo bere qualcosa, nascono i manifesti, antenati della moderna pubblicità, realizzati per reclamizzare al pubblico le serate. uno dei più celebri illustratori di manifesti, e Henri de Toulouse-Lautrec, un eccellente interprete dell'arte divulgativa e della società di quel periodo. Quel manifesto è arte nuova, è una reclamo. Il museo esce per le strade. E questo porta un bel gruzzolo. Dai, dai, stenta! È una bomba la reclamo! Bellezze scappettate! La tua nuova arte non vale il mio culo! La Ville Lumière, dove le lampade a gas lungo i suoi viali proiettano la loro luce gialla sui marciapiedi umidi e le ragazze si mostrano senza pudore nella penombra dei locali, sembra essere il luogo ideale dove far brillare lo spirito creativo e la gioia di vivere di un giovane ragazzo viennese con la passione per la danza, le donne e gli abiti. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours. Se in Europa si vive il fermento degli inizi del secolo con curiosità, caricando il futuro di aspettative, in America si vive l'intensificarsi dell'intolleranza nei confronti dei neri. Others were not so easily controlled. A secret organization, the Ku Klux Klan, spread its poisonous influence throughout a large part of the country. Il Ku Klux Klan fa le sue vittime, così come la diffusa discriminazione razziale a tutti i livelli sociali. Gli schiavi afroamericani impiegati nelle piantagioni di cotone, soprattutto negli stati del sud, in Louisiana, sul delta del Mississippi, nel South Carolina, intonano i loro canti di lavoro. Nasce il ragtime, letteralmente tempo stracciato, che più tardi sarà denominato jazz. Ritmo, improvvisazione, atmosfere fumose di orchestre che si esibiscono nei locali malfamati o per le strade. Questo è il jazz. Questa è la risposta alla violenza dei bianchi. La musica. Jelly Roll Morton compone questo pezzo nel 1903, considerato il primo pezzo di successo del genere. Quando da New Orleans i neri si trasferiscono al nord, dal 1910 al 1920, attirati anche dalle opportunità di lavoro e di guadagno, la culla del jazz diventa Chicago. E un giovane trombettista si unisce all'esodo per cercare fortuna. Il suo nome è Louis Armstrong. Questo è il clima in cui cresce Frida Josephine McDonald, una buffa ragazza di colore che sembra avere l'argento vivo addosso. Non riesce a stare ferma coi piedi. Nasce a St. Louis, nel Missouri, nel 1906, in una famiglia poverissima. Josephine è costretta fin dall'età di 7 anni ad andare a lavorare come servetta in una ricca famiglia di bianchi, che hanno la premura di ricordarle ogni giorno di non baciare i loro bambini. Come racconta lei stessa, era normale sentirsi dire certe cose. Mi avevano insegnato a credere che la mia vita e quella della gente di colore fosse senza valore. Ogni giorno mi dicevano che ero inferiore ai bianchi. Per fortuna, la sua vitalità non si spegne. Uscita da quella casa ogni pomeriggio, va per le strade e comincia a muovere il suo corpo al ritmo della musica che invade tutta l'America. Mani sulle ginocchia leggermente piegate, gomiti aperti all'esterno e le punte delle sue scarpe consumate che formano semicerchi sul selciato polveroso, mentre le sue mani passano da un ginocchio all'altro, incrociandosi. Quando riesce a sprigionare tutta quell'energia, le sembra di volare e dimentica le brutture del razzismo. Ma quando, nel 1917, nella sua St. Louis, avviene quello che fu definito il massacro di East St. Louis, non riuscirà a toglierselo dagli occhi per il resto della sua vita. Un gruppo di padroni senza scrupoli reagisce a uno sciopero di dipendenti bianchi assumendo al loro posto dei lavoratori neri. La massa operaia assale il ghetto, lo brucia e fa 39 vittime, costringendo 10.000 persone, ovviamente afroamericani, a lasciare la città, come scrive il quotidiano locale. Un esodo di gente in lacrime, terrorizzata, che trascina i feriti, che ha perso tutto. Per Josephine, la necessità di andarsene, di fare qualcosa di diverso che rimanere a soccombere alla discriminazione, si fa più forte. Come racconta Richard Martin, un suo nipote. Quando lei vide quella rivolta, lì fu il momento in cui realmente capì che era giunto il momento di fare qualcosa, di andarsene. Lo dico sul serio, è così che ce lo raccontava. Così all'età di 13 anni si sposa. Il matrimonio è la sua possibilità di uscire dalla famiglia, scappatoia che si rivelerà proficua per la sua indipendenza, meno per la relazione, che durerà pochi mesi. Giusto il tempo di capire che è la danza la sua passione, che vuole andare ad Harlem, dove le hanno raccontato che altri neri stanno facendo fortuna nello spettacolo. Nelle sue performance per strada si rende conto che la gente si ferma a guardarla, non solo perché si muove in un modo incredibile, ma anche perché tra un passo di danza e l'altro riesce a fare certe facce buffe che fanno sorridere i passanti. Le sue gambe sono lunghe, vivaci e spuntano dall'abitino a vita bassa con tutta la loro esuberanza. Le braccia sono lunghe e si muovono senza sosta, mentre sul suo viso, coronato da crespi capelli corti, compaiono delle divertenti fossette e gli occhi a comando si incrociano a guardare il naso. Lei è tutto quello che ha, come racconterà in un'intervista. Il violinista ha il suo violino, il pittore il pennello. Io tutto quello che avevo era me stessa e di quello dovevo prendermi cura. Mi piaceva ballare come una scimmia. Qualcuno se ne accorge, balla bene, ha pure una bella voce. E la sua comicità è quello che serve per un certo tipo di spettacolo. Si esibisce al Plantation Club di New York, uno dei luoghi dove è in atto la cosiddetta Harlem Renaissance. Sono gli anni anche del Cotton Club, dove si mettono in scena spettacoli che riproducono l'immaginario razzista e discriminatorio dei tempi, dove i neri sono dipinti come selvaggi in giungle esotiche o nelle piantagioni. Il club, fra l'altro, impone uno strano requisito riguardo alla carnagione delle ragazze, che devono essere alte, ambrate e fantastiche. Tall, tan and terrific. Vale a dire, alte almeno 1,60 m, con pelle non troppo scura e sotto i 21 anni d'età. Tutti i requisiti che Josephine possiede. E poi devi essere brava per entrare al Cotton Club, come racconta Francis Ford Coppola nel suo film che prende il nome dal mitico locale. Guarda, mamma! Ah, lo sai che devi essere bravissima per lavorare al Cotton Club. Tell me, honey, won't you tell me, please? Piano, mamma. Is it love or love's disease? I got a feeling in my knees. Always must be love. I got a funny, funny feel. Oh, io andrei forte al Cotton Club. Now she had a dream about the king of sweet. He gave her things that she was needing. He gave her a home filled with gold and steel, a diamond car with a platinum wheel. What he would he weigh? Per Josephine tutte le strade sono possibili. Lei vuole solo muoversi al ritmo della musica su un palco. È molto giovane e il suo corpo di donna si sta trasformando piano piano. Quella che sembrava una buffa ragazzina ora è diventata una femmina intrigante. I suoi occhi, ai quali fa sempre fare espressioni comiche, sprigionano un'energia quasi primitiva, ipnotica. Si sente pronta per un secondo matrimonio. Il primo, non valido per questioni di età, è stata una scappatoia. Questo forse sarà qualcosa di più. Lui è Willie Baker. E anche se la relazione finirà dopo qualche mese, riuscirà a lasciare un'impronta indelebile sulla sua nascente carriera. Da allora, Josephine sarà per sempre Josephine Baker. Josephine Baker. Nel 1922 si presenta un provino da Nobby Sissi e Dubie Blake, un duo afroamericano specializzato in vaudeville, un genere di commedia leggera nata in Francia, dove alla prosa si alternano pezzi cantati e ballati. La specialità di Josephine, essere comica e al tempo stesso una brava ballerina. Entrerà con loro a far parte della rivista Shuffle Along, in cartellone con successo a Broadway. Un'altra porta si apre per la giovanissima Josephine, quando nel 1924 la vogliono per un altro spettacolo, The Chocolate Dandies. Lei si fa notare, affascina il pubblico con le sue pose da scimmia, come le ha definite lei, e strappa sempre l'applauso, come ricorda Adelaide Hall, un'amica. Le sue performance erano strepitose. Certamente quando lei faceva tutte quelle cose divertenti, il pubblico era attratto e applaudiva. Piaceva anche per come ballava e cantava. Josephine era continuamente sopra le righe. Muoveva la testa, le gambe, le braccia in continuazione. Era sempre scomposta, ma molto brava. Era una comica, non era una ballerina. E non era nemmeno bella, ma era sicuramente affascinante. Il suo senso del ritmo e il suo sfacciato sense of humor diventano in breve la sua impronta. La sua personalità è traboccante. E in ogni cosa che fa, anche la più piccola, e il suo talento la sorregge. Quando è sul palco non si risparmia, finché nel 1925 viene notata da Caroline Dudley Reagan, un'americana bianca, moglie di un diplomatico, che decide di esportare il Black Soul in Europa, nella fattispecie a Parigi, per far conoscere anche nel vecchio continente questa era jazz. Il progetto della Reagan è una rivista dal nome assolutamente evocativo, la Revue Nègre. Josephine, dopo le esperienze newyorkesi, accetta di partire per Parigi e dà così corso al suo destino, come ricorda lei. Sì, a New York sono entrata nello Shuffle Along, poi sono stata al Cotton Club e infine il mio destino era di partire per Parigi. Nell'estate del 1925 Josephine salpa per Parigi con gli altri artisti dello spettacolo. Parigi è la città dove tutti in quegli anni si fermano a guardare, a respirare l'aria di novità, la possibilità di un futuro diverso dove niente sia più come prima. Sono gli anni del manifesto surrealista e André Breton urla a gran voce: niente più pittori, né letterati, né musicisti, né scultori, né religioni, né repubblicani, né realisti, né imperialisti, né anarchici, né socialisti, né bolscevichi, né politici, né proletari, né democratici, né borghesi, né aristocratici, né eserciti, né polizia, né patrie. Insomma, basta con tutte queste imbecillaggini, più niente, più niente, più niente, niente, niente, niente. Josephine adesso ha un unico sogno, quello di essere se stessa, senza censure o discriminazioni. Lontana dal suo paese d'origine, dove avere la pelle scura è diventato sempre più difficile, in Europa spera di trovare la sua dimensione. Anche scherzandoci sopra, con la sua solita ironia, ma più consapevole del proprio valore come artista e come donna. Il debutto è il 2 ottobre del 1925 al Teatro degli Champs-Élysées. È un trionfo. Josephine è bella come una Venere nera. Le sue movenze sono erotiche perché primitive. I suoi muscoli frementi mentre si agita a suon di jazz sono quelli di un felino. Lei è il suo strumento, tutto quello che le serve. Anche se a completare quell'opera d'arte che è la sua fisicità, la sua negritude, come verrà definita dal poeta Cedar Senghor, manca ancora qualcosa. Quel qualcosa che la consacrerà icona di un intero periodo storico. Of you, tears on my pillow, but I will come through. Josephine, I send you all my love. Destini incrociati. È il 2 ottobre del 1925 e siamo a Parigi. Josephine Baker ha appena debuttato al Teatro degli Champs-Élysées nella Revue Nègre, uno spettacolo di artisti afroamericani destinato a diventare ben presto uno degli appuntamenti obbligati della Ville Lumière. Il suo magnetismo, la sua bravura, stregano il pubblico francese. È subito un successo. I Café Concert e i Music Hall negli anni 20 a Parigi sono una delle attrazioni più grandi. È l'epoca del grand spectacle, un'epoca irripetibile. Spettacoli di varietà, teatro di rivista, vaudeville, insomma, tutto ciò che può divertire, rendere la vita più frizzante. Sono molti gli artisti che arrivano dall'America e che cercano di imporsi al pubblico francese. Quando la Revue Nègre fa il suo ingresso nella capitale, si registra subito il tutto esaurito. Sono gli anni in cui il colonialismo francese è al suo culmine nel Nord Africa e poter ridere di fantomatici esploratori che si scontrano con caricature di selvaggi neri è una sorta di catarsi per la Francia. Josephine Baker, con la sua primitiva nudità e le sue movenze sensuali, ma allo stesso tempo divertenti, ne è la massima espressione. Dopo pochi mesi, il Folies Bergère la vuole sul suo palco. Folies Bergère, il cui nome originale era Folies Trevisa, dal nome della strada adiacente lo stabile, viene inaugurato nel 1869, ma qualche anno più tardi prenderà l'attuale nome. Il cambiamento non viene dettato da ragioni artistiche, ma unicamente dal fatto che la precedente denominazione, Trevise, urta la sensibilità dell'omonima famiglia, che non vuole vedere il proprio nome accostato a un teatro di varietà. Viene così scelto il più comodo Bergère, dal nome di una strada sempre nei pressi. Fornito di bar, al Folies Bergère si può mangiare, fumare, giocare d'azzardo e ballare, tutto all'insegna del bel vivere. Manet gli dedica il celebre dipinto Le Bar au Folies Bergère. Proust lo cita nella sua Recherche. Tra gli artisti che hanno calcato le sue scene dal 1911 c'è anche Maurice Chevalier. On se rappelle toujours sa première amie. J'ai gardé de la mienne un souvenir pour la vie. Un jour qu'il avait plu, tous deux on s'était plu. Et puis on se plu de plus en plus. Per Josephine è un'altra grande opportunità. Accetta così di trasferirsi al Folies Bergère, dove la variopinta epopea dello spettacolo è al suo massimo. Il varietà qui è un trionfo di nudi e trasparenze, di costumi incredibili che agghindano ballerine con piume e colori. Danzare nuda, però, per lei è quanto di più naturale ci sia. Tanto che nella sua prima apparizione qui non mancherà di farlo. In un'intervista all'età di 67 anni al celebre talk show americano Merv Griffin Show, ne riderà così. Did you appear naked in Folies Bergère? Ma è vero che comparve nuda al Folies Bergère? Certo che l'ho fatto, perché no? Sono nata nuda, perché non farlo? Ho ragione, signore. E perché non è venuta nuda anche oggi? Perché ho 67 anni e avevo paura di prendermi un raffreddore. Licenze libertine e frivolezze sono all'ordine del giorno per uscire dal grigiore del dopoguerra. Ci sono le ragazze che fanno roteare le loro gambe, ma ci sono anche scenografie imponenti. E senza i costumi tanto trasgressivi quanto ricercati nel progetto e nella fattura, non ci sarebbe il Music Hall. Un singolo spettacolo richiede fino a 1500 costumi diversi, considerando che si devono vestire almeno 300 artisti, usando fino a 7 diversi costumi, a seconda di quanto imponga la sceneggiatura. Proprio per soddisfare tale richiesta di creatività, Parigi diviene meta di decine e decine di stilisti ante litteram che confluiscono da tutta Europa. Ci sono pittori e illustratori, ritrattisti e disegnatori ai quali viene affidato il fondamentale compito di pensare e di mettere su carta con dovizia di particolari i costumi che sarti, cappellai, calzolai e parrucchieri avrebbero cucito addosso alle dive e alle ballerine di scena. Anche per Josephine sarà lo stesso e il suo primo costume al Folies Bergère, lei ancora non sa, diventerà il suo marchio di fabbrica. Banana till the morning come. Daylight come and me one go home. Come Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and me one go home. Come Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and me one go home. Uno dei maggiori disegnatori di costumi dei Music Hall è il russo Romain de Tirtov, in arte Erté. come la pronuncia francese delle sue iniziali. A soli 19 anni si trasferisce a Parigi e comincia a interessarsi all'Art Déco. In breve, diventa un maestro per tutti quelli che vogliono seguire quella strada. Il suo segreto lo ricorda lui stesso. Per me la cosa più importante quando lavoro è pensare che mi sto apprestando a fare un quadro. Ci sono le scene sullo sfondo e all'interno ci devono stare i costumi, come una parte di un progetto più completo. Quando nel 1925 Josephine entra al Folies Bergère, lui è a capo della squadra che si occupa delle scenografie e degli abiti dello spettacolo. Al suo servizio, un giovane viennese appena arrivato nella capitale francese per vedere se la passione per le illustrazioni e per gli abiti può avere un seguito nella sua vita. È il poco più che ventenne Paul Seltenhammer. Tutti quei colori, quelle decorazioni prese a prestito dalla natura, dalle piume degli uccelli, dai fiori più strani, dalle stampe orientali, si mescolano nella sua fantasia e ritornano nei suoi bozzetti rielaborati. Herté gli ha chiesto di seguirlo, come le decine di aspiranti stilisti che vogliono imparare da lui. E quel giorno, quando la Revue Nègre e la sua protagonista, Josephine Baker, varcano la soglia dei camerini del teatro, Paul ha una visione e il quadro della sua immaginazione si completa. Il risultato è qualcosa che anche il maestro ricorda a distanza di anni. Tutte le produzioni che ho disegnato sono sempre state molto glamour. Non ricordo nulla di più folgorante e, perché no, glamour allo stesso tempo di quando Paul ebbe l'intuizione per la Becker. La sua influenza fu determinante per l'artista e per un periodo storico. Sì, la folgorazione è immediata. Quella ragazza che sta facendo impazzire Parigi e che danza senza veli ha bisogno di distinguersi, di osare con un costume particolare. Paul avverte quel non so che di selvaggio che traspare dagli occhi e dalle movenze di Josephine e lo vuole condensare in qualcosa di audace e allo stesso tempo semplice, che la completi senza appesantirla. Il francese di Josephine è piuttosto buono, quello dell'aspirante costumista un po' meno, ma appena si presenta l'occasione di scambiare qualche parola con la ballerina afroamericana, lui non si tira indietro. La vista ballare è decisamente lontana dalle donne coi corsetti e le gonne lunghe che ballano il valzer e che gli ricordano casa. Lei sembra non avere ossa. La sua schiena si inarca quasi fino a terra. Le sue ginocchia sono elastiche, le sue braccia ondeggiano e i suoi occhi roteano in continuazione. Sembra che il suo corpo voglia scrivere qualcosa nell'aria. Niente linee rette per la Baker, solo curve. Ecco l'illuminazione. Paul le propone di vestirsi solo con un gonnellino di banane. Il destino trova qui la sua concretizzazione per sempre, come ci racconta un giornalista. Nel primo spettacolo alle Folies Bergère fece quel numero al quale sarà associata per il resto della sua vita, la famosa banana dance. L'ambientazione dello spettacolo è la giungla. Lei interpreta una selvaggia che incontra un esploratore francese e comincia a danzare a modo suo. Quella danza che verrà appunto chiamata Banana Dance. Quella sola cintura di banane che Paola decide di farla indossare è da allora il suo tratto distintivo. Cosa meglio di un frutto esotico e così sinuoso, come lei del resto, a condensare la sua personalità? Il colpo di genio che in un attimo permette a Josephine di uscire dal circuito dei teatri per andare sui manifesti, sulle riviste di moda, come la donna libera e anticonformista che tutte le francesi vorrebbero essere. A questo si aggiunga la sua innata eleganza felina, mista alla sua primitiva esuberanza, che, enfatizzata dal giallo di quelle finte banane sullo sfondo della sua pelle color ebano, l'hanno resa l'icona di un periodo. Paul, in un'intervista a un quotidiano, lo ricorda così. Josephine Baker e quel suo gonnellino di banane sono state il battesimo del mio ingresso nel mondo del music hall. Mai avrei immaginato che quella provocazione sarebbe diventata il suo marchio. Ebbene sì, tutti decidono che lei è quel gonnellino di banane. Paul Collin, uno dei più importanti cartellonisti pubblicitari francesi del primo dopoguerra sulle orme di Toulouse-Lautrec, la ritrae per il manifesto della Revue Nègre con quel gonnellino di banane, rendendo quell'immagine l'immagine simbolo di un'epoca. Allo stesso modo, il fotografo George Oningen-Yun, editor di Vogue, la ritrae per la rivista coperta solo dalla creazione di Seltenhammer. Frutta, ma soprattutto banana, è la parola d'ordine. Sidney Bechet, uno dei più famosi clarinettisti jazz, unitosi per un periodo alla Revue Nègre al Folies Bergère, in uno degli spettacoli, compare vestito da fruttivendolo e, spingendo un carretto carico di frutta arrivato al centro del palco, tira fuori il suo clarinetto e improvvisa meravigliosamente un blues. Destini incrociati. Siamo a Parigi. Josephine Baker, una giovane e sfrenata ballerina afroamericana, è l'attrazione del music hall Folies Bergère. Dopo l'incontro con l'aspirante costumista Paul Seltenhammer, che ha ideato per lei un costume particolare, la sua immagine diventa iconografica. È un semplice gonnellino di banane, ma condensa nella sua naturale modernità primitiva tutta la personalità e l'esuberanza della Venere nera. Inarrestabile, Josephine comincia a calcare tutte le scene dei teatri francesi. Parte anche per una tournée europea. Tutti vogliono vedere questa giovane esuberante, erotica, selvaggia, che incanta uomini e donne con quelle banane che ondeggiano a ritmo di musica sulle sue anche, sottolineandone una volta in più la sua prorompente femminilità. Gli spettacoli si moltiplicano, i costumi diventano sempre più variopinti, i balli sempre più acrobatici. Tutti vogliono ballare il Charleston, come lo balla lei. È grazie a lei che questo genere si diffonde nel vecchio continente. Ogni sera si fa la fila per vedere cosa regalerà al pubblico con i suoi scherzi, i suoi tempi comici, la sua voce. Tutti vogliono salire sul palco con lei. Monsieur Barbichon, là. Vous voulez, monsieur? Merci. Et vous, monsieur? Venez un petit peu, ça va vous donner un peu de force. La presenza scenica è impareggiabile, così come il suo carisma. Tutti la seguono, basta un suo gesto e la platea si mette a cantare. La la la la. Cha cha cha. Cha cha cha. Cha cha cha. Plus fort. Cha cha cha. Allez. Cha cha cha. Oh! Chiama dal pubblico dei signori e li coinvolge in un ballo. Le sue gambe sono le protagoniste. Imitarla non è facile, ma lei è magnetica e la gente ci prova. Il risultato è sempre divertente. È una ballerina, una cantante, ma è soprattutto una donna di spirito. Quello che ci vuole per dimenticare le brutture del dopoguerra. Sembra essere la risposta a ogni cosa. Georges Simenon se ne innamora e sarà un assiduo frequentatore del teatro, sempre in prima fila per poterla ammirare. Ernest Hemingway la definisce la donna più bella che ci sia, che sia mai esistita e che mai ci sarà. Francis Scott Fitzgerald non perde occasione di andarla a vedere. Pablo Picasso, Jean Cocteau e tanti altri grandi dell'epoca la prendono come musa. Parigi l'ha adottata e lei sente di avere due patrie, o come dirà nella sua celebre canzone, due amori. Il suo paese è Parigi. Una canzone che diventerà l'inno della Lost Generation e che la caratterizzerà negli anni a venire. Ne farà persino un duetto con Mario Riva. E se noi lo chantons maintenant ensemble, tous les deux, vous voulez bien? Sì, vous. Moi, avec Josephine Baker? Oh là là, où est-elle Josephine Baker? On ne la connaît pas. Je la connais. Allez! C'est la fin du monde. Alors, d'accord, d'accord, fin du monde. Alors, un, deux, trois. Je désamour. Nel 1936 parte per una tournée negli Stati Uniti, ma non incontra il grande successo cui l'Europa l'ha abituata. Il suo inglese ha un leggero accento francese, cosa che le viene rimproverata, e poi è una diva di colore, cosa che non passa inosservata nell'America di quegli anni. Eppure la Venere nera non si dispera, anzi, al ritorno in Francia nel 1937 prende la cittadinanza francese. L'accoglienza a Parigi è calorosa. Alla stazione, centinaia di persone la vanno a prendere e la ricoprono di fiori. Un signore ha con sé una fisarmonica e le chiede di improvvisare alcune strofe di J'ai deux amours. Come ricorda lei, in Francia essere afroamericana non è mai stato un problema. Come posso dimenticare? Loro mi hanno fatto dimenticare il colore della mia pelle. La sua riconoscenza alla Francia è enorme. Ein Blick auf den Eiffelturm. Le Quando nel 1940 i tedeschi entrano a Parigi, Josephine si ritirerà in un castello in un villaggio vicino alla città, a Leumiland, dove entrerà in contatto con la resistenza. Familiar streets suddenly as hot with bullets as a border town. Guns dug out of the backyard. Bombs dished up by the corner druggist. Allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, si mobilita a favore della Croce Rossa, diventa un agente del controspionaggio e si arruola nei servizi segreti della Francia Libera come una nera Mata Hari, utilizzando gli spartiti musicali per nascondere dei messaggi. Come molte dive del momento, anche lei canterà per i soldati al fronte. Alla fine della guerra avrà il grado di capitano e Charles de Gaulle la decorerà con la medaglia alla Legion d'Onore. La savane est belle, mais à quoi bon nier ceux qui m'ensorcellent, c'est Paris, Paris tout entier. Quanta vita è passata da quel gonnellino di banane. Adesso la Baker è il simbolo della Parigi dei music hall, delle danze sensuali, ma è anche il simbolo dell'impegno politico. La sua grande popolarità deve essere utilizzata anche contro il razzismo, secondo lei, e così decide, col quarto marito, di adottare ben 12 bambini di 5 diverse nazionalità. Una tribù arcobaleno, The Rainbow Tribe, come la chiamerà lei, a rappresentanza dei 5 continenti. Tutti fratelli senza distinzione alcuna di colore o razza. Lascia i teatri per dedicarsi alla famiglia, alla nuova versione della Venere Nera, nel suo castello di Leumiland. Una specie di villaggio del mondo. Fino al giorno in cui i soldi finiscono. Così torna sulle scene. Fidel Castro la vuole a Cuba e lei non mancherà. Torna persino in America, dove nella sua Harlem le riservano un'accoglienza meravigliosa. Il mio ritorno ad Harlem. Non mi dimenticherò mai quel giorno. Tutta la gente di Harlem era per le strade a salutarmi. Mi hanno accolto come una sorella che combatte per la dignità di tutto il genere umano, senza distinzioni. Questo però è Harlem. L'America è anche e soprattutto altro in quel periodo. Una sera Josephine entra in un club, lo Store Club, dove ordina come tutti gli altri ospiti la cena. Ma a lei nessuna pietanza viene servita per almeno un'ora. Inutili le proteste col cameriere, nasce un vero e proprio caso Baker. Viene ripreso dai giornali. L'opinione pubblica si divide. Sembra ci sia addirittura un complotto ai suoi danni, perché di colore e forse perché comunista. Questo non fa che aumentare il suo impegno nella lotta alla discriminazione. Ma la vera priorità adesso è trovare i soldi per Leumiland. Il mio piccolo villaggio è il villaggio del mondo ed ha bisogno di un supporto finanziario. Così sono tornata sulle scene perché continuassi ad esistere, perché è davvero molto importante. Ho molti piccoli bambini che vivono in quel villaggio e loro sono il simbolo della vera fratellanza. Devo trovare i soldi per quei piccoli. Leumiland non deve morire, è troppo importante. Rappresenta una bella idea e le idee non devono morire, non devono. E sempre a proposito di idee e di impegno, nel 1963 non può mancare all'appuntamento con la storia al fianco di Martin Luther King alla marcia su Washington. Vestita con l'uniforme e col suo innato carisma, arringa la folla. Voi siete alla vigilia di una vittoria completa. Non si può fallire. Il mondo è con voi, bianchi e neri. Proprio come dovrebbe essere. Penso proprio che bisogna mescolare il sangue. Altrimenti la razza umana è destinata a degenerare. Il sangue misto è meraviglioso. Rende gli uomini forti e intelligenti e tiene lontani gli spiriti stanchi. Sono ormai gli anni 70. Le difficoltà finanziarie sono sempre più grandi e Josephine è costretta a vendere Leumiland. La principessa Grace di Monaco, sua amica e come lei di origine americana, le offre un alloggio per passare il resto della vita in Costa Azzurra, oltre a invitarla nel Principato di Monaco per numerosi spettacoli di beneficenza. Sono lontane ormai le luci della Ville Lumière, ma quando entra nei teatri fa ancora il tutto esaurito e il gonnellino di banane rimane l'iconografico costume di una star e di un'epoca. Anche Merv Griffin, nel suo omonimo show nel 1974, non mancherà di chiederglielo. If I recall the publicity, you wore bananas. I certainly did. Many? Well, one here and there and everywhere. And that became probably one of the most popular parts of the... How do you say it? It's folie. Folie bergère. Folie bergère. Folie bergère. L'8 aprile del 1975, in occasione dei suoi 68 anni e 50 di carriera, si riuniscono a Parigi Grace di Monaco e Sophia Loren. Josephine esegue per loro in anteprima una selezione dei suoi successi, ricevendo dalla stampa lusinghiere recensioni. Ma la morte è in agguato. L'11 aprile si ammala e poche ore dopo muore per emorragia cerebrale. Più di 20.000 persone affollano le strade di Parigi per vedere il corteo funebre che la accompagna alla chiesa della Madeleine. Il governo francese, prima donna sepolta in Francia con gli onori militari, la onora con 21 colpi di cannone. E Paula Seltenhammer? Dopo Josephine Baker e il successo come costumista nel Music Hall parigino, si è dedicato al cinema. Come probabilmente era scritto nel suo DNA, ha curato i costumi di Romy Schneider nei film dedicati alla principessa Sissi. Certamente niente a che vedere con la trasgressione e il magnetismo della dea creola che ha incantato gli anni folli parigini con la sua Banana Dance. Destini incrociati. Destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.